Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Cavalcai fino a Hof e l'indomani fino a Kassel, lasciando credere che portavo dispacci per il principe Enrico, allora a distanza nel Basso Reno. Presi alloggio nel migliore albergo della città, dove pranzavano anche gli ufficiali della guarnigione. Offrii a quei gentiluomini i migliori vini che la casa poteva fornire, perché ero ancora ben deciso a far la parte del gentiluomo inglese. E parlai loro dei miei possedimenti in Inghilterra con tanta eloquenza che quasi quasi credevo anch'io alle storielle che inventavo. In albergo sedeva alla nostra tavola un ufficiale prussiano che mi trattava con grande cortesia, facendomi sull'Inghilterra mille domande a cui rispondevo come meglio potevo. Ma questo mio meglio, devo dire, era quasi un peggio. Non sapevo nulla dell'Inghilterra, della corte, delle casate nobiliari di laggiù, ma trascinato dalla vanagloria della gioventù, nonché da una mia propensione di allora a mettermi in mostra parlando in modo non sempre aderente alla verità, un difetto che ho corretto molto tempo fa, inventavo mille storie da raccontargli. Gli descrivevo il re e i ministri. Dicevo che l'ambasciatore inglese a Berlino era mio zio e promettevo al mio amico una lettera di raccomandazione. Quando l'ufficiale mi chiese il nome di mio zio, non seppi dargli il nome vero e così gli dissi che si chiamava O'Grady. Era un nome buono quanto qualsiasi altro. E poi gli O'Grady della contea di Cork erano, per quanto ne sapevo, una famiglia pari per nobiltà alle migliori del mondo. Quanto alle storie del mio reggimento, quelle naturalmente non mi mancavano. Vorrei che le altre fossero altrettanto autentiche. La mattina della mia partenza da Kassel, il mio amico prussiano mi venne incontro con un bel sorriso aperto e disse che era anche lui diretto a Düsseldorf, dove avevo detto che mi dirigevo. Così affiancammo i cavalli e ci avviammo senza fretta. Il paese era incredibilmente desolato. Il principe di cui stavamo attraversando i domini era noto per essere il più spietato venditore di uomini della Germania. Vendeva a tutti gli acquirenti e nei primi 5 anni del conflitto, che fu poi chiamato Guerra dei 7 anni, aveva tanto decurtato le riserve maschili del suo principato che i campi restavano incolti, mentre anche i bambini di 12 anni venivano portati via alla guerra. Vidi i greggi di questi infelici marciare avanti, sospinte da pochi cavalleggeri al comando di un sergente della Hannover in giubba rossa o di un sottufficiale prussiano. Con alcuni di questi il mio compagno scambiò cenni di riconoscimento. «Offende i miei sentimenti», disse, «dover trattare con simili canaglie, ma le dure necessità della guerra richiedono sempre nuovi uomini, e così questi reclutatori che vedete commerciano in carne umana. Ricevono dal nostro governo 25 talleri per ogni uomo che portano». «Per uomini in gamba, per uomini come voi», aggiunse ridendo, «ne diamo anche 100. Ai tempi del vecchio re vi avremmo pagato 1000 talleri, ma allora c'era il suo reggimento di giganti che il nostro attuale monarca ha sciolto». «Ne conoscevo uno», dissi, «che aveva servito con i vostri. Lo chiamavamo Morgan Prussia». «Ah, davvero? E chi era questo Morgan Prussia?» «Accidenti! Era un pezzo d'uomo dei nostri, un granatiere che venne acciuffato, non so come, nello Hannover, da qualcuno dei vostri reclutatori». «Delinquenti», disse il mio amico, «hanno avuto il coraggio di prendere un inglese». «In realtà era un irlandese e senz'altro troppo furbo per loro, come sentirete». Morgan, dunque, venne preso e arruolato nel corpo di guardia dei giganti. Era quasi il più grosso tra tutti quei colossi. Molti di quei mostri si lamentavano tutto il giorno della loro vita, delle fustigazioni, delle lunghe esercitazioni e della misera paga. Ma Morgan non era nel numero dei brontoloni. È molto meglio, diceva, ingrassare qui a Berlino che fare la fame vestito di stracci a Tipperary. Dov'è Tipperary? Domandò il mio compagno. È proprio quello che chiesero gli amici di Morgan. È un bellissimo distretto d'Irlanda e ha per capitale la magnifica città di Clonmel. Una città, lasciatemelo dire, signore, inferiore solo a Dublino e a Londra, e ben più fastosa di qualsiasi altra sul continente. Bene. Morgan diceva di essere nato presso questa città e che nella sua attuale condizione la sola cosa che lo rendeva infelice era il pensiero che i suoi fratelli erano rimasti a casa a morire di fame, mentre si sarebbero trovati molto meglio al servizio di Sua Maestà. «Diamine!» dice Morgan al sergente a cui aveva fatto sapere queste cose. «Mio fratello Ben! Lui sì! Che farebbe un bel sergente delle guardie! Sarebbe perfetto!» «Ben è alto come te?» domandò il sergente. «Come me! Amico mio, io sono il più basso della mia famiglia. Di noi ce ne sono altri sei, ma Ben è il più grosso di tutti. Di gran lunga il più grosso. 7 piedi, dalle suole delle scarpe alla punta dei capelli, com'è vero che mi chiamo Morgan. Non potremmo mandarli a prendere, questi tuoi fratelli? Ah, voi no, di certo. Da quando uno dei vostri gentiluomini con la sferza mi ha convinto a disertare, loro hanno un'antipatia mortale per tutti i sergenti, rispose Morgan. Ma certo che è un vero peccato che non possano venire. Che figura impressionante farebbe Ben con un berretto da granatiere! Poi non parlò più dei suoi fratelli. Sospirava soltanto, come se lamentasse il loro duro destino. Ma la storia venne raccontata dal sergente agli ufficiali e dagli ufficiali al re in persona. E Sua Maestà fu così acceso di curiosità che arrivò a permettere a Morgan di andarsene a casa per riportargli i suoi 7 enormi fratelli. «Ed erano davvero grossi come Morgan dava a intendere?» domandò il mio compagno. Non potei trattenermi dal ridere della sua ingenuità. «Credete che Morgan sia ritornato?» esclamai. «Ah, certo che no! Una volta libero, era troppo furbo per tornare in gabbia. Con il denaro che gli era stato dato per ingaggiare i suoi fratelli, si è comprato una bella piccola fattoria a Tipperary. Credo che pochi uomini della guardia abbiano mai guadagnato tanto dal loro servizio.» Il capitano prussiano rise a lungo di questa storia. Disse che gli inglesi erano la gente più astuta del mondo e, quando lo corressi, riconobbe che gli irlandesi lo erano ancora di più. E così continuammo il nostro viaggio. Tutte e due molto contenti della compagnia, perché anche lui aveva 1000 storie di guerra da raccontare, sull'abilità e il valore di Federico, e sulle 1000 fughe e vittorie e sconfitte attraverso cui il re era passato. Adesso che ero un gentiluomo, ero in grado di ascoltare questi racconti con ammirazione. Eppure il sentimento di cui ho parlato alla fine del capitolo scorso era ancora ben vivo nella mia mente, come lo era stato soltanto 3 settimane prima. Ricordavo bene che era il grande generale a prendersi tutta la gloria e il povero soldato solo insulti e scherzate. «E ditemi, a chi portate quei dispacci?» chiese l'ufficiale. Era un'altra domanda sgradita, e decisi di rispondere a casaccio, e così dissi: «Al generale Rolls.» Avevo visto il generale un anno prima, diedi il primo nome che mi venne in mente. Il mio amico sembrò più che soddisfatto di questa risposta, e continuammo a cavalcare fino a sera, quando, visto che i cavalli erano stanchi, decidemmo di fare una sosta. «Questa è un'ottima locanda», disse il capitano mentre ci avvicinavamo a un posto che mi sembrava molto solitario. «Può darsi che sia un'ottima locanda per la Germania», dissi io, «ma nella vecchia Irlanda non sarebbe nemmeno passabile. Korbach dista solo 1 lega. Tiriamo avanti fino a lì.» «Volete vedere la donna più graziosa d'Europa?» disse l'ufficiale. Vecchio furfante, vedo che questo argomento fa presa. E a dir la verità, una proposta del genere mi era sempre ben accetta. E non me ne vergogno. Quelli di qui sono ottimi agricoltori, disse il capitano, oltre che albergatori. Infatti il cortile ricordava più una fattoria che una locanda. Entrammo attraverso un grande cancello in un cortile cintato da un muro, con in fondo un edificio in rovina di colore smorto. Nel cortile c'erano un paio di carri coperti, con i cavalli sistemati sullo strame sotto una tettoia lì accanto, e per lo spiazzo gironzolavano alcuni uomini, tra cui due sergenti in uniforme prussiana, che salutarono il capitano, mio amico, toccandosi il cappello. Questa comunissima formalità non mi sembrò affatto strana, ma nell'aspetto della locanda c'era qualche cosa di terribilmente gelido e torvo. Notai che gli uomini richiudevano il grande cancello subito dopo la nostra entrata. Per la campagna si aggiravano bande di cavalleggeri francesi, spiegò il capitano. Non si poteva essere troppo cauti con quei delinquenti. I due sergenti si presero cura dei nostri cavalli e subito dopo andammo a cena. Il capitano aveva anche ordinato a uno di loro di portarmi in camera la valigia. Promisi a quel degnissimo individuo un bicchiere di schnaps per il suo disturbo. Ordinammo un piatto di uova fritte e pancetta a un'orrida vecchia venuta a servirci al posto della meravigliosa creatura che mi aspettavo. Il capitano disse ridendo: «Certo, il nostro è un pranzo frugale, ma un soldato mangia spessissimo di peggio». E deposti con gran cerimonia il cappello, la spada con la sua cintura e i guanti, si sedette a mangiare. Non volli essere da meno quanto a buona educazione e appoggiai tranquillamente la mia arma sul vecchio cassettone accanto alla sua. L'orrenda vecchia di prima entrò con una caraffa di vino acidissimo e questo, insieme alla sua bruttezza, mi mise di cattivo umore. «Dov'è la bellezza che mi avevate promesso?» chiesi non appena la vecchia strega fu uscita. «Bah!» rispose lui, ridendo e guardandomi fisso. «Era uno scherzo!» Ero stanco e non avevo voglia di andare più avanti. «Qui non c'è donna più bella di quella. Se non vi soddisfa, amico mio, dovrete aspettare un po'.» Questo aumentò il mio malumore. «Sul mio onore, signore», dissi in tono grave, «credo che abbiate agito con grande impudenza». «Ho agito come meglio credevo», rispose il capitano. «Signore», dissi, «sono un ufficiale inglese». «È falso», urlò l'altro. «Voi siete un disertore. Siete un impostore, signore. Ne sono certo da 3 ore ormai. Sospettavo di voi già ieri. I miei uomini avevano sentito parlare di un uomo fuggito da Barburg. Ho pensato che quell'uomo foste voi. Le vostre assurde menzogne me l'hanno confermato. Pretendete di portare dispacci a un generale che è morto 10 mesi fa. Avete uno zio ambasciatore, ma il suo nome, guarda un po', non lo sapete. Volete arruolarvi e prendere la nostra paga o preferite essere riconsegnato ai vostri?» «Nell'uno nell'altro», dissi balzando su di lui come una tigre. Ma se io ero agile, anche lui si teneva in guardia. Trasse di tasca 2 pistole, tirò un colpo con una e disse dall'altro capo della tavola, dove si era fermato per tenermi a bada: «Hai un solo passo avanti e ti ficco questa pallottola nel cervello». Un minuto dopo la porta si spalancò e i 2 sergenti entrarono con moschetto e baionetta per dar manforte al loro compagno d'armi. La partita era persa. Gettai a terra il coltello di cui mi ero armato. La vecchia strega, portando il vino, aveva tolto di mezzo la mia spada. «Mi arruolo volontario», dissi. «Ah, ecco il mio uomo. E che nome devo mettere sull'elenco?» «Scrivete Redmond Berry di Belly Berry», rispose con voce fiera, «discendente dei re d'Irlanda». «Un tempo prestavo servizio in una brigata irlandese», disse il reclutatore con un ghigno di scherno. «Cercavo di trovare qualche tipo adatto tra quei pochi tuoi compaesani che fanno parte della brigata. E forse non ce n'era nemmeno uno che non discendesse dai re d'Irlanda. Signore, dissi io, re o non re, io sono un gentiluomo, come potete vedere. Ne troverai molti altri nel nostro corpo, rispose il capitano, che aveva ancora voglia di ridere di me. Dammi le tue carte, caro signor gentiluomo. Vediamo un po' chi sei, in realtà. Il mio portafogli conteneva delle banconote, oltre alle carte di Mr. Fakenham, e io non volevo dargli ciò che era mia proprietà. Sospettavo, e a ragion veduta, che fosse solo un trucco del capitano per prendersi la mia roba e tenersela. A voi può importare molto poco quello che dicono le mie carte, dissi. Io mi sono arruolato con il nome di Redmond Barry. Dammele subito, mascalzone, ribatté il capitano impugnando la sferza. Non ve le darò, rispose. Cane, ti ribelli, urlò lui, e al tempo stesso mi diede una sferzata in pieno viso, con il risultato che lui si aspettava. Scoppiò una zuffa. Io mi gettai in avanti per afferrarlo. I due sergenti mi si buttarono addosso, venni sbattuto a terra e rimasi di nuovo privo di sensi, perché ero stato colpito proprio sulla mia vecchia ferita alla testa. Quando tornai in me, sanguinavo copiosamente. La mia giacca di merletto mi era già stata strappata di dosso, la mia borsa e le mie carte erano sparite e avevo le mani legate dietro la schiena. Il grande, illustre Federico aveva al suo servizio, lungo tutte le frontiere del suo regno, decine di questi mercanti di schiavi bianchi, gente che induceva i soldati alla diserzione o rapiva i contadini senza fermarsi davanti a nessun crimine pur di rifornire di carne da cannone quei suoi splendidi reggimenti. Ma non posso astenermi dal raccontare qui, con una certa soddisfazione, il destino che alla fine toccò a quell'infame canaglia che, violando tutti i principi dell'amicizia e del cameratismo, era appena riuscita a intrappolarmi. Quell'individuo era una persona di ottima famiglia, noto per le sue grandi capacità e per il suo coraggio, ma con una forte inclinazione al gioco e allo sperpero, e si era accorto che la sua vocazione di richiamo per le reclute gli rendeva molto di più che la sua paga di secondo capitano di linea. Si chiamava Monsieur de Gelgenstein ed era tra i più abili a praticare questo ignobile commercio. Parlava tutte le lingue, conosceva tutti i paesi e non aveva avuto la minima difficoltà a smascherare le millanterie di uno sbarbatello come me. Verso il 1765, però, fece la fine che si meritava. A quell'epoca viveva a Kehl, di fronte a Strasburgo, e aveva l'abitudine di fare la sua passeggiata sul ponte per attaccare discorso con le sentinelle avanzate dei francesi. Prometteva loro montagne e meraviglie, come si dice in Francia, a patto che passassero al servizio della Prussia. Un giorno c'era sul ponte un superbo granatiere che Gelgenstein accostò, promettendogli almeno il comando di una compagnia se si fosse arruolato sotto Federico. «Chiedete al mio compagno laggiù», disse il granatiere. «Senza di lui non faccio nulla. Siamo nati, cresciuti insieme, apparteniamo alla stessa compagnia, dormiamo nella stessa stanza, andiamo sempre in coppia. Se è disposto ad andare, e se farete anche lui capitano, verrò anch'io». «Fai venire il tuo compagno a Kehl», disse Gelgenstein tutto contento. «Vi offrirò il migliore dei pranzi e ti prometto che saprò soddisfarvi tutti e due». «Non sarebbe meglio se gli parlaste sul ponte?» disse il granatiere. «Io non mi azzardo a lasciare il mio posto, mentre voi avete solo da fare un passo per discutere la faccenda». Dopo una breve trattativa, Gelgenstein passò oltre la sentinella, ma d'un tratto lo prese il panico e tornò indietro. Il granatiere però puntò la baionetta al petto del prussiano e gli intimò di fermarsi. Ormai era suo prigioniero. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli,